mi scusa per il mio italiano molto basso, ma io tenterò di leggere. Tra i problemi storici fondamentali di quei territori che oggi si designano con i nomi di Trentino, Alto Adige, Südtirol e il Land Tirol austriaco, si annoverò per più di 500 anni il quesito sul rapporto politico e giuridico tra il Principato Tirolese e la posizione secolare dei Vescovi di Trento e di Bressanone. A partire dal 300, allorché il Tirolo acquisì la propria fisionomia sotto Menardo II, fino alla secolarizzazione nel 1803 dei principati ecclesiastici nell'ambito del Sacro Romano Impero, i rapporti di diritto pubblico tra i principi secolari e quelli ecclesiastici lungo il corso superiore dell'Adige e dell'Isarco costituirono oggetto di discordia più o meno attuale ma costante. I rappresentanti ed impiegati dei vescovi e dei conti si incontrarono con scritti polemici, perizie e processi, finanche con l'uso di massicce pressioni militari, e quando l'esplosiva forza politica di questi contrasti sembrò aver perso efficacia a partire dall'inizio dell'Ottocento, furono soprattutto gli storici ad affrontare talora ampiamente questo problema. Non vi è certamente carenza di fonti che permettano di affermare sui vari aspetti delle relazioni reciproche nel corso dei secoli tra i principi tirolesi e quelli trentini, dei quali unicamente ci interesseremo in questa sede. Per i nostri fini sarà sufficiente limitarsi ad un unico genere di fonti, ossia ad documenti ufficiali. Essi permettono di conoscere nel modo migliore se il principe vescovo Giovanni Hinderbach sia riuscito a superare questo problema fondamentale anche per la sua ricchezza in qualità di principe, o meglio quanto ciò non gli sia riuscito quale principe vescovo nel senso di raggiungere una posizione indipendente. Il punto di partenza delle nostre riflessioni sarà costituito dalla struttura formale dei documenti relativi che regolavano i rapporti tra il conte del Tirolo, ossia il duca Sigismondo d'Asburgo Austria, ed il vescovo tridentino. Convenzioni di questo tipo sono conosciuti dagli studiosi di storia come compattate. Si dovrà tornare brevemente più oltre sulla problematica di tale denominazione. Secondo un'interpretazione di tali documenti come patto tra principi di eguale rango nell'ambito del Sacro Romano Impero, si dovrebbe effettivamente aspettarsi che i documenti in riguardo fossero stati concepiti o in modo strettamente bilaterale o in modo impersonalmente neutrale. Ciò vorrebbe dire che in un caso sarebbero stati scambiati due documenti tra le parti, in un altro caso invece che un'autorità neutrale, ovviamente un notaio pubblico, avrebbe prodotto due scritti con il medesimo testo per ambedue le parti. Entrambe le possibilità non valgono però per la documentazione in rapporto con la nostra formulazione del problema. A questo riguardo siamo in possesso solo di documenti strettamente di una parte, e cioè tanto che si tratti di notazioni documentarie con forme di garanzia da parte dei soli vescovi verso i principi del Tirolo. Al contrario, non esistono diplomi o scritti comparabili dai conti per i vescovi. Non si può dunque credere che questo fatto sia più o meno casuale, senza importanza. Non solamente la scena diplomatica dell'età moderna si delinea con i tratti di un rigido formalismo nelle relazioni scritte tra le potenze, anche nel Medioevo si era estremamente sensibile sotto questo aspetto. E se solamente il vescovo definiva sempre per iscritto i suoi rapporti con il conte, ciò corrispondeva direttamente ad un'effettiva sottomissione o subordinanza ed era quindi in contraddizione con una presunta parità di rango. Formalmente le cosiddette compattate così avvicinano più ad una capitolazione che ad un accordo. Concretamente ciò significava che i vescovi trentini nel 400 non avevano documenti a disposizione nei quali i principi del Tirolo avessero definito i propri doveri e diritti nei confronti del principato vescovile. Al contrario, la cancelleria tirolese viceversa possedeva una serie di documenti di quel genere, opere di diversi redattori vescovili e datanti dagli anni 60 dal 300 in poi. Il riferimento a concessioni antecedenti entrate nella tradizione e consuetudine e quindi particolarmente tutelati giuridicamente da parte di precedenti vescovi di Trento nei confronti dei signori del Tirolo rientrava nelle consuete dichiarazioni che si rivengono in scritti posteriori a favore dei conti del Tirolo della casa Asburgo d'Austria. Questi ultimi, al contrario, non erano in alcun modo legati per parte loro nei confronti di Trento da garanzie documentarie dei loro predecessori. Dopo aver considerato questo aspetto formale e generale, ci dedicheremo concretamente ai rapporti tra Giovanni Hinderbach e il Duca Sigismondo. Siamo in possesso di un ampio documento vescovile del 1468 che segue interamente le tracce di precedenti assicurazioni da parte di precedenti vescovi trentini nei confronti dei principi tirolesi. Innanzitutto viene offerto un riassunto del contenuto di questo scritto, ove si deve notare che il tenore del testo originale tramandato non si trova ancora sotto forma di stampa, non è stato mai preso in considerazione finora dagli studiosi. Ci si accontentava di posteriori traduzioni italiane proposte da Ambrosi e da Kögel o di un'edizione tedesca come quella che si trova nella storia dei Landeshauptleute tirolesi ad opera di Georg von Brandis. L'originale del documento vescovile dell'anno 1468 si trovava naturalmente nell'archivio dei principi tirolesi ad Innsbruck, ove esso venne accuratamente registrato all'inizio del Cinquecento nel famoso repertorio Puch. Proprio là si trova anche la nota posteriore Wien e nella Allgemeinen Urkundenreihe im Haushof und Staatsarchiv a Vienna è annoverato ancora oggi l'originale alla data del 20 maggio 1468. La citazione di questa data precisa si dimostra importante poiché tutta la bibliografia più recente dà l'indicazione errata del 20 o 25 giugno. Ritorniamo comunque al documento del vescovo Giovanni Hinderbach. Nell'originale, che si noti è redatto in lingua tedesca, il principe vescovo riconosce per sé e per i suoi successori nei confronti di Sigismondo, duca di Austria, Stiria, Carinzia, eccetera, conte del Tirolo, suo grazioso signore. Tale designazione si trova regolarmente nello scritto che egli è approdato al vertice della Chiesa Trentina grazie alla benevolenza del Duca e che quindi a lui dovrà sempre particolare gratitudine. E poi disse il Vescovo, abbiamo considerato ed appreso che noi e insieme la nostra Chiesa dobbiamo comportarci ed associarci a sua grazia gegen seine Gnaden verso le sue terre e verso i suoi sudditi, perciò siamo da loro difesi e mantenuti graziosamente, e come dai nostri predecessori vescovi di Trento è stato fatto con Verschreibung und Versorgnus. Queste parole nell'originale sono veramente molto difficili di tradurre. Verschreibung e Versorgnus verso i suoi predecessori principi d'Austria e conti del Tirolo. Questa vasta citazione illustra ancora una volta, in un modo eccellente a mio parere, la problematica fondamentale di una traduzione adeguata. Il termine Verschreibung nell'originale viene tradotta ingannevolmente da Kögel come compatate. Mi sembra che sarebbe preferibile piuttosto per Verschreibung assegnamento oppure obbligazione o più letteralmente cessione per iscritto. Un'analisi approfondita dell'uso del verbo compattate nella documentazione storica tornerebbe di grande utilità in questo contesto. È opportuno tuttavia tornare sul documento del 1478. per amore della pace e del bene pubblico della Chiesa di Trento e della Contea del Tirolo, anche egli, Giovanni, è intenzionato a seguire questo esempio e quindi con il consiglio e l'approvazione del capitolo, dei vasalli e degli altri sudditi, ancora una volta conferma spontaneamente di fronte al Duca Sigismondo e ai suoi eredi e successori, quali principi d'Austria e conti del Tirolo, gli obblighi Verschreibung, è scritto nell'originale, del suo diretto predecessore Giorgio Hack verso il Duca Sigismondo, così come sono contenuti nel documento del 1455. Lo stesso vale per l'obbligazione, e l'esempio della stessa parola, Verschreibung, del 1460 dal vescovo Giorgio a favore del principe asburgico. Più oltre, il vescovo Giovanni si obbliga a tenere sempre aperto il castello del Buon Consiglio a Trento per i conti del Signore del Tirolo e di loro successori. A tal fine il Duca e Conte Sigismondo, può insediare nel castello un capitano che sia gradito al vescovo e che questi deve mantenere insieme ad un seguito a lui adeguato. A sua volta il capitano deve assistere il vescovo negli affari secolari e giurare al medesimo di consigliarlo sempre per il meglio. Inoltre ricade nelle competenze del capitano collocare nel castello di Buon Consiglio degli Schützen, questa parola tedesca nell'originale, termine che si trova nell'originale, che giurano obbedienza a lui anziché al vescovo. Ma anche il seguito nobiliare del vescovo è obbligato a prestare un corrispondente aiuto al capitano nella difesa del castello. Il capitano possiede inoltre le chiavi di tutte le porte della città di Trento, che all'occorrenza deve dotare di inservienti e di schützen. Oltre a ciò, a lui spetta il controllo di tutta la città insieme alla Torre Vanga e tutte le altre torri. Ne dispone a propria discrezione, di modo che non derivi alcun danno al vescovo, alla chiesa, alla graziosa signoria d'Austria di Rolo, alle loro terre e ai loro sudditi. Anche i funzionari insediati a Trento dal capitano dovranno essere graditi al vescovo e a questi giurare solennemente di riscuotere fedelmente tasse e dazi. Nel caso il vescovo stesso dovesse comportarsi in modo contrario alle obbligazioni del suo predecessore Giorgio Hack o delle promesse di questi o agire contro la signoria di Austria Tirolo o gli eredi di questi, i successori, le terre e i sudditi, in tal caso il vescovo Giovanni conferma ancora una volta espressamente con questa lettera che il capitano ed il suo seguito, il castello del Buon Consiglio, la città di Trento e le altre città vescovili, i castelli, le chiuse con i loro titolari e tutti i sudditi non sono tenuti a prestargli aiuto contro i principi tirolesi. Gli impiegati trentini del vescovo in tal caso non sono comunque obbligati a venire in aiuto dagli Asburgo, ma hanno il permesso di restare fermi e inattivi. Sie dürfen ganz müßig gehen und still sitzen. Se tuttavia il vescovo nella sua azione contro i principi tirolesi trova aiuto da parte di stranieri, i sudditi del principato vescovile e i funzionari del vescovo sono allora obbligati a prendere le parti dei tirolesi e dei loro signori. Gregorio Andrea, quale decano, e tutti i canonici del Duomo diedero dunque la loro esplicita approvazione su tutti questi punti. Anche essi, come il vescovo Giovanni, apposero il loro sigillo al documento redatto a Bolzano. Il sigillo rosso, ad ovale stretto, con la raffigurazione del Duomo di Trento, si trova apposto ancora oggi sull'originale, mentre il sigillo vescovile è andato perduto. Per poter apprezzare nella loro totalità gli impegni contratti dal vescovo Giovanni Hindebach attraverso il documento del 20 maggio 1468, e al di là delle indicazioni sul suo contenuto presentate sopra, è assolutamente necessario richiamare alla memoria il contenuto delle corrispondenti obbligazioni di Giorgio Hack, che datano 1455 e 1560. Queste due scritte, come abbiamo già detto, erano stati espressamente riconosciuti da Hindebach come per lui vincolanti in tutti i loro punti ed articoli. Ambedue i documenti si trovavano allora in possesso della Cancelleria dei Principi del Tirolo, ovvero nel corrispondente archivio, dal quale, così come avvenne per l'originale del 1478, pervennero all'archivio di Stato a Vienna. Il vescovo Giorgio Hack, nel suo scritto del 1454, conferma per sé, i suoi successori e tutti i sudditi della Chiesa, quasi ancor più rigidamente di Giovanni Hindebach, la sua dipendenza dal Duca Sigismondo. Egli usa la definizione «unsere gnädige Herrschaft», la nostra grazia signoria d'Austria, per il Principato Austria-Tirolo-Asburgo. Con questa signoria e con la terra della Contea del Tirolo, il Vescovo rimarrà in guter Einung und ungesundert, in buona unione e inseparato. George Hack sottolinea anche la decisione di quella unione tra Dato e Bundnus. Bundnus è un termine molto difficile, perché può essere unione, Bündnis, ma può essere anche una forma di obbligatio, di, come si dice, di vincolatio, binden, e anche così, una Bundnus, una legame, una legatio. Anche in questo senso la traduzione è molto difficile, ma penso difficile non per noi, ma anche nel 400. Che cosa significa questo verbinden? Il vescovo Giorgio Hack si obbligò concretamente verso il Duca Sigismondo ad un fedele sostegno contro chiunque, ad esclusione del Papa, ed a lasciare aperte per i principi tirolesi tutte le città e i castelli e chiuse della Chiesa Trentina. Un'eventuale guarnigione tirolese in questi luoghi era tuttavia a carico del Duca. Il Vescovo promette solennemente di non dare inizio ad alcuna guerra contro chi che sia senza l'approvazione del Duca Sigismondo. Tutti i funzionari laici del Vescovo hanno l'obbligo di prestare anche essi giuramento su quest'atto, e ciò doveva avvenire ad ogni cambio al vertice sia a Trento che nel Tirolo. Al contrario, il Duca Sigismondo, il nostro grazioso Signore, unser gnädiger Herr, i suoi eredi e successori devono difendere il Vescovo, i suoi successori, il capitolo trentino e la Chiesa come protettori e mantenerli in possesso dei loro diritti. Questa formulazione, si noti bene, del documento vescovile suona piuttosto come un pio desiderio, e questa impressione si rafforza nell'appendice direttamente successiva: doch sollen davon alle vor- und nachgeschriebenen Artikel nicht berührt werden, ma senza alcun effetto riguardo gli articoli precedenti e successivi. Nel caso di un conflitto tra Vescovo e Duca si prevedeva una procedura per arbitrato. In un post-scritto si sottolinea ancora una volta che tutte le precedenti obbligazioni, patti, diritti ed obblighi tra Trento e il Tirolo non dovevano venire intaccati dalla presente stipulazione. Più oltre, il decano ed il capitolo spiegano la loro completa approvazione del documento vescovile, e in una seconda redazione Giorgio Hack si impegna ulteriormente a perseguire entro il termine di un anno un convalida di quello scritto da parte della Santa Sede. Se ciò non andasse a buon fede, il documento rimarrebbe comunque in vigore. Questo per quanto concerne il documento del 1454. Sei anni dopo, nel 1460, il vescovo Giorgio Hack stese altri documenti a favore del Duca Sigismondo, senza che poi, nella versione rinnovata da Giovanni Hindebach, venga affermato quali di questi atti si volessero espressamente riconoscere nel 1468. Questi documenti regolano, nelle tradizioni a noi già nota, le enormi possibilità di influenza dal Principato tirolese su Trento, soprattutto dal punto di vista militare. Più esattamente, essi contengono anche delle garanzie per il caso della morte del principe vescovo Giorgio Hack. In quell'occasione doveva aver luogo una libera elezione, ma il nuovo vescovo era obbligato a rinnovare tutte le Verschreibungen comportate obbligazioni a favore del duca. Soltanto quando ciò fosse avvenuto, i funzionari vescovili nella città e nei castelli sarebbero stati esortati all'obbedienza. Una simile disposizione in un relativo documento del vescovo Hack può essere interpretata in questo ambito come un chiaro rimando a massicce violazioni da parte del duca. Ancor più la frase che stabilisce l'illegittimità da parte del duca di asportare dai castelli, dalle città e dai giudizi o distretti, dai gerichte del principato vescovile, denaro, argenteria, gioielli, polvere da sparo, armatura e così via. Per quanto sappiamo, simili misure drastiche furono attuate a Trento dai principi tirolesi nel tardo Medioevo. Se tuttavia un simile passo all'interno di un documento vescovile dovesse essere inteso come efficace misura difensiva, è cosa altamente dubbia. Il sigillo del vescovo Giorgio Hack del capitolo sul documento del 1460 in quest'ottica poteva offrire tanto scarsa sicurezza quanto quella delle analoghe convalide del 1468 per mano del vescovo Giovanni Hinderbach e del suo capitolo. Un corrispondente provvedimento documentario da parte del duca verso il vescovo ed il capitolo sarebbe stato più conveniente, almeno su carta o pergamena, ma il principe tirolese non si è dimostrato disposto a tanto. Questa affermazione non è contraria al fatto che nel stesso 20 maggio 1468 anche il duca Sigismondo ha rilasciato un diploma a favore del vescovo Giovanni Hinderbach, ancora esistente in originale nell'archivio di Stato di Trento. Questa copia e questo originale purtroppo un po' ridimensionato e perciò difficile di leggere. Il contenuto di questo documento è soprattutto molto significativo. Il duca dichiara che Giovanni Hinderbach ha ricevuto la cattedra di Trento per grazia sua e perciò il vescovo, ex gratitudine, ha rilasciato una Verschreibung, un obbligo scritto verso il duca. Nessun parola si trova in codesto documento dei doveri del duca, ma letteralmente si legge tutti gli articoli dello strumento già annotato del vescovo. Così gli obblighi e assicurazioni di Giovanni Hinderbach furono sigillati due volte, per un documento del vescovo e per un altro documento dal duca. Al contrario, Sigismondo stesso rimane senza un obbligo. Cerchiamo ancora una volta di redigere un apprezzamento sintetico della decisiva compatate, non voglio dire compatate, perché questa parola mi sembra non il vero, questa Verschreibung, questa obbligazione, obbligo, come si dice, forse stipulazione, io non so. Questo strumento assicura ai signori del Tirolo un decisivo diritto di controllo militare nel Principato Vescovile di Trento a mezzo del capitano insediato. Costui controlla la città vescovile nonché tutti i punti saldi del territorio e può esercitare la sua influenza in tutti i settori degli affari temporali del vescovo quale suo assistente ufficialmente incaricato. Per quanto concerne la politica estera, il principe vescovo ha le mani completamente legate. Delle formulazioni generali assicurano inoltre gli stretti legami del principato vescovile con il Tirolo, esistenti già da lungo tempo. Proprio a causa della loro indeterminata forma di espressione, simili locuzioni lasciavano aperte al principato tirolese, di fatto troppo potente, tutte le auspicabili possibilità di interpretazione e di influenza sul territorio vescovile, tanto più che esso, il principato vescovile, non si distingueva generalmente per stabilità interna. Si pensi solamente con quale frequenza in quei decenni scoppiarono seri conflitti tra la città di Trento e il vescovo, e che un consistente spazio geografico a sud del territorio trentino era del tutto sottratto al potere del principe ecclesiastico e si trovava sotto la sovranità di Venezia. Questa circostanza, sicuramente assai favorevole per il duca Sigismondo, si presentava per una parte predominante come un'eredità storica che risaliva all'epoca di Menardo II e che dal 1363 si era rafforzata a favore del conte del Tirolo Asburgico. Il duca Sigismondo aveva dunque ulteriormente consolidato la sua posizione, soprattutto verso il vescovo Giorgio Hack, e significativamente proprio in un periodo nel quale i contrasti fra i principi tirolesi ed il vescovo di Bressanone, Nicolaus Cusanus, avevano raggiunto il loro apice. Giovanni Hindebach non aveva più alcuna possibilità di dare un altro corso alle cose. Il cardinale di Bressanone era morto, Hindebach stesso doveva fondamentalmente il suo seggio vescovile al duca Sigismondo e così dovette prendere atto di queste condizioni generali di base e pagarne il relativo tributo. Quanto ai rapporti del momento nel 1468 determinassero è un aspetto che non può essere tratteggiato in questa sede, visto che il tempo limitato a nostra disposizione. Su questo argomento mio collega professor Malecek qualche settimana fa ha trovato nuovi documenti molto significativi nel House of Staatsarchiv. Pochi giorni dopo la stesura del documento vescovile furono emanati dai mandati dal duca Sigismondo per alcuni suoi seguaci sul territorio del vescovo, quali ad esempio i comandanti dei castelli di Bergine e di Beseno, perché il vescovo fosse lasciato titolare dei propri diritti. Non erano state però eliminate tutte le difficoltà. Una dieta tirolese, riunita a Bolzano nel giugno di quest'anno, si occupò nuovamente dei discussi rapporti tra il vescovo e i principi del Tirolo. I suoi componenti assicurarono il proprio sostegno al duca. In conclusione, se ci vogliamo chiedere quali fossero gli aspetti nuovi del documento del maggio 1468, dobbiamo riandare al ruolo chiave del capitano insediato a Trento dal duca. Per giungere a questo provvedimento si andò infatti per gradi. Nella forma istituzionalizzata, quest'uomo di fiducia della casa tirolese si presentava quale importante innovazione nel principato vescovile in quanto al vertice del potere militare e nel ruolo di consigliere ufficiale del vescovo. Il capitano ed il suo seguito adesso sono tuttavia finanziariamente a carico del vescovo. Ai tempi del vescovo Giorgio Hack era ancora il signore del Tirolo, invece a dover garantire il merito. Nuovo era però l'espresso obbligo dei sudditi trentini di entrare effettivamente in azione a fianco dei tirolesi nel caso il vescovo, loro signore, si fosse rivoltato contro quei principi. Con la Fascereibung, con le cosiddette compattate, del 1468 si era raggiunto un certo termine nello sviluppo dei rapporti tra il vescovo di Trento ed il signore del Tirolo. Attraverso concessioni concrete e formulazioni generali che ammettevano ulteriori interpretazioni a favore del più potente di facto, il vescovo aveva dovuto riconoscere la superiorità del duca. I successori di Giovanni Hindebach confermarono regolarmente il documento e ancora nel 600 si considerava quello scritto quale base per i sempre delicati rapporti di diritto pubblico fra le due potenze confinanti. Così per esempio l'ampio documento del 1630 del cardinale Carlo di Madruzzo, principe vescovo di Trento, per l'archiduca Leopoldo d'Austria di Tirolo, contiene ancora una volta letteralmente il testo delle obbligazioni della Fascereibung, della cessione di Giovanni Hindebach e anche di Giorgio Hack. Così le concessioni di questo vescovo al duca Sigismondo erano dunque destinate ad un'efficacia veramente secolare. Grazie. Grazie al professor Riedmann per questa magistrale relazione, la storia delle strutture e la storia delle parole. Per Schreiber rimarrà la parola, credo, al centro della discussione e della riflessione di oggi, insieme a altre tematiche. Ecco, dopo questa illustrazione così limpida della sovranità limitata, diremmo oggi, dall'esterno, insomma, oppure cominciamo già a discutere su questo, ad ogni modo vediamo ora i problemi all'interno con la relazione Bella Barba, che verterà appunto sulla... integrazione della relazione, parla il professor Malice, chiedo scusa allora. Allora, ringrazio Malice di questo suo intervento che penso poi è così. Chiedo scusa per questo intervento non previsto dal programma, ma sono documenti veramente nuovi che voglio presentare. Tutti i presenti sanno che... C'è anche la suspense, c'è il thrilling oggi, proprio... Dal XV secolo in poi... è qualche volta possibile di seguire il diventare di un documento di cancelleria principesca, perché è stato conservato non soltanto il risultato finale, cioè il diploma solenne sigillato, ma anche le varie carte che vi hanno condotto. Questo è il caso delle compattate della Verschreibung del 1468, almeno dalla parte tirolese. Ho trovato questi documenti nel Haushof und Staatsarchiv di Vienna, in un fondo dove nessuno li aspettava, cercando tutt'altra cosa, e ciò pochi giorni fa, così che l'amico Riedmann non ha più potuto inserire il materiale nella sua relazione, ma mi ha lasciato la presentazione come una piccola aggiunta a quello che ci ha detto. Invece di riassumere documento per documento, vorrei farne una breve sintesi. Risulta dunque dallo studio di queste 25 pagine circa. Primo, lo spazio lasciato al Hindenbach, der Verhandlungsspielraum, era minimo, perché la minuta del diploma vescovile è stata redatta nella cancelleria tirolese e non in quella trentina. Secondo, i rappresentanti del vescovo, di cui non sappiamo ancora i nomi, riuscirono nelle trattative che si svolgevano a Bolzano nei giorni prima del 20 maggio del 1468 a frenare le pretese del duca Sigismondo, che, interpretando la prima delle minute, avrebbero mirato ad un'annessione vera e propria del principato vescovile, o almeno ad una proroga del regime che dava il governo temporale al duca, come era previsto nelle Verschreibungen di Giorgio Ack. L'accesso al castello del Buon Consiglio, sede del capitano tirolese, sarebbe per esempio stato consentito al vescovo solo in caso di emergenza e con una compagnia di 4 persone, senza pregiudizio per i diritti del duca. Il governo della città di Trento sarebbe stato unicamente affare di Sigismondo. Il patto fra il conte e il vescovo sarebbe stato valido solo per 5 anni, dopo i quali le trattative sarebbero state rinnovate. Terzo, la seconda minuta riflette bene le trattative dure e difficili. Molte cancellazioni nel testo, varie aggiunte e nuove formulazioni fanno intravedere le lunghe discussioni che, per i rappresentanti del vescovo, puntavano alla conservazione del dominio temporale del loro signore. Non è ancora possibile di identificare con sicurezza le varie mani che hanno contribuito alla redazione delle minute, ma mi sembra che 2 personaggi della cancelleria tirolese, Serntainer e Ludwig Rath, erano responsabili del testo. Quarto, è da notare che la posizione tirolese diventa sempre più mite. Nella seconda minuta, per esempio, è previsto che tutti i castelli ed uffici del Principato saranno custoditi da tirolesi o altre persone provenienti dal dominio austriaco e tutti gli Amtleute, funzionari del Vescovo, saranno nominati solo con il consenso di Sigismondo. Tutti i sudditi del Vescovo devono giurare che rispetteranno il patto, quale giuramento sarà annoverato verso ogni nuovo conte tirolese. Nel caso che il Vescovo non rispetta le clausole del trattato, Sigismondo potrà confiscare tutti i domini temporali del Vescovo e così via, clausole che non si trovano più nella redazione finale. Quinto, solo nell'ultima tappa delle trattative un riferimento va fatto alle compattate con il vescovo Giorgio Hack del 1454 e 1460. Da parte tirolese si preferiva ovviamente un documento non più così dettagliato, ma uno che permetteva al duca di intromettersi ad ogni volta che gli pareva opportuno. Sesto, finalmente, naturalmente le famose compattate del 1468 vanno inserite in un contesto più ampio della politica tirolese asburgica, anche se il diploma del 20 maggio 1468 può sembrare una capitolazione del Hindapach verso Sigismondo, in realtà non lo è, perché una restituzione parziale del potere temporale avvenne. La concessione del tirolese si spiega per il fatto che nella primavera del 1468 gli affari trentini erano secondari. Tutti gli interessi erano diretti verso la salvaguardia dei domini asburgici in Svizzera e nei Forlande in Svevia, e proprio nelle settimane intorno alla conclusione delle compattate cominciavano i preparativi del Waldshut Krieg con gli svizzeri, che nell'intenzione della corte tirolese e di Sigismondo doveva risolvere una volta per sempre la questione svizzera. Grazie. Thank you.